con Vezio di Villetta Social Lab per presentare Visionaria Festival 2019, vicinissimo e lontano, sguardi dal mondo, dal 24 al 29 giugno a Roma, alla Villetta Garbatella. Vezio, ben trovato. Ciao, ben trovato a te, ben trovato a tutte e a tutti. Ci racconti cos'è Visionaria? Sì, Visionaria in realtà è al secondo appuntamento, al secondo anno in cui alla Villetta di Garbatella proponiamo una 6 giorni di dibattiti, approfondimenti politici, cultura, ci saranno proiezioni di film e spettacoli teatrali, anche un punto ristoro come la migliore tradizione. Proviamo ad approfondire quest'anno i temi sull'Europa, tant'è che abbiamo immaginato un titolo un po' spiritoso, insomma, che richiama qualcosa di alcuni anni fa, Giochi senza frontiere. Proviamo appunto ad approfondire dando uno sguardo su quello che oggi è l'Europa, su quello che secondo me dovrebbe essere, sui punti in cui dovremmo provare a mobilitarci per cercare di spostare l'asse appunto dell'Unione Europea su un punto di vista più umano. Appunto, con lo slogan Restiamo umani, siamo molto attenti alle vicende ovviamente sui migranti, su come questi vivono le traversate sul Mediterraneo, che tante vittime continuano a mietere, e su come immaginare un'accoglienza diversa dentro il nostro paese, che sia appunto inclusiva, scevra da odio, da rancori e da paure di fatto immotivate. Per cui proveremo appunto ad approfondire questi temi e lo faremo in questa 6 giorni intensa di dibattiti. Abbiamo diversi interlocutori con i quali proveremo a fare questo. Partiremo dalla giornata del 26 con un titolo Europa, cambiare tutto. Proveremo ad affrontare appunto i temi che dicevo prima con Bartolo, penso che conosciamo abbastanza tutti, insomma, il medico che si occupa appunto di, effettivamente, no? Di fare accoglienza positiva nel sud d'Italia, nel sud del mondo in particolare. Avremo il piacere anche di ospitare il 27, quindi il giorno dopo, Henry De Luca, che farà appunto anche lui un approfondimento con pagine europee che abbiamo chiamato. Lasceremo a lui la parola, insomma, con il suo modo unico e incisivo di raccontare anche questi temi complicati e a noi cari. Avremo anche il 28 un dibattito con il titolo che più o meno abbiamo dato alla rassegna, che è appunto Giochi senza frontiere, insieme a Massimiliano Smeriglio, che è appena stato poi eletto al Parlamento europeo. Questo, diciamo, è un po' l'impianto, senza scordare anche gli altri temi. Abbiamo, diciamo, provato anche a mantenere un profilo sul mondo, sulle questioni, diciamo, del femminile, del femminismo, sulle questioni del gender, quindi anche perché su questi, no, sappiamo che c'è un attacco frontale e quotidiano che viene appunto effettuato, a partire appunto dalla convenzione sulla famiglia di Verona, no, che ha visto comunque una contrapporsi una manifestazione forte, plurale, anche quella incisiva. Diciamo, questo è l'impianto che abbiamo voluto immaginare, cercando di essere il più plurali e laici possibili da questo punto di vista, cercando di intercettare quante più forze, quante più energie possibili per la costruzione di un'opposizione sociale e politica incisiva e reale. Oltre ai momenti di dibattito, ci saranno anche degli appuntamenti cinematografici. Noi apriremo con i primi 3 giorni in cui abbiamo appunto previsto di proiettare 3 film indipendenti, no? Che sono stati poco presenti nel circuito mainstream, in cui partiremo il 24 con Basileus di Alessandro Marinelli, il 25 Sembra mio figlio di Costanza Quadriglio e il 26 con Spaghetti Stories di Ciro De Caro. Anche qui abbiamo provato a mettere sul piatto della discussione 3 film che parlassero in qualche modo un po' di periferie, no? Con Basileius, no? Della scuola media di San Basilio, con tutte le contraddizioni che oggi le periferie, ma non solo da oggi ovviamente, attraversano. Sembra mio figlio, riguarda forse un po' più da vicino anche qui la questione dei migranti, parliamo di questi due ragazzi afghani che vanno in cerca della madre, ritornano nella loro terra d'origine in Pakistan. Anche qui una storia tracciata quasi a livello di poesia, no? Se vogliamo, appunto su questi temi con lunghi silenzi, lunghe riflessioni. Spaghetti Stories invece è un film sul disagio di commedia, sul disagio del passaggio dall'adolescenza all'età matura, di chi in qualche modo cerca di sbarcare il lunario, di far fronte alle situazioni complicate del mondo del lavoro che oggi ci troviamo di fronte, elette in una chiave, diciamo, di commedia italiana. Ecco. Su questo poi ci sarà appunto anche dopo la proiezione saranno aperti dibattiti e di riflessioni su ogni singolo tema. Okay. Come sarà articolata rispetto agli orari una singola giornata? Le risonanze saranno abbastanza intense, nel senso che noi abbiamo previsto anche, diciamo, oltre a quello che viene definito il dibattito principale, insomma, della sera, ci sarà anche nel pomeriggio, insomma, tempo permettendo con la Gallura Romana, nel primo pomeriggio ci saranno anche gli angoli dove saranno affrontate altre discussioni. Ci sarà poi il dibattito centrale e la sera si alterneranno i tre film che ho appena elencato, e gli ultimi due giorni ci saranno diciamo due concerti e ci sarà una performance teatrale il giovedì. Per cui è abbastanza articolato, ci saranno più appuntamenti durante tutte le giornate, il luogo ci consente anche di fare appunto questo, perché sostanzialmente ci sono due parti, diciamo così, no? C'è una parte dove c'è il palco principale e a fianco un altro spazio all'aperto che ci consente quindi di avere anche più iniziative in contemporanea senza che queste poi si sovrappongano a livello, diciamo, di audio. Quindi saranno giornate intense. Ci dai i riferimenti internet per la programmazione? Dovrebbe essere in fase di chiusura, come al solito arriviamo sempre un pochettino in ritardo, www.visionaria-fest2019.it. E allora ricordiamo la seconda edizione di Visionaria Festival, Giochi senza frontiere, il titolo di quest'anno, alla Villetta a Roma dal 24 al 29 giugno 2019. Se posso aggiungere solo l'indirizzo per chi non lo sapesse, la Villetta si trova a Garbatella, in via Passino 20. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede lì. Grazie a tutti e a tutte, ciao.